Ho bisogno di un po' di silenzio. Se vuoi emozionarti, devi sintonizzarti. Come si chiama? Gesù. È in pericolo. Arrivi tardi. A quest'ora davanti a Pilato. L'hanno trovato. Qualcuno l'ha tradito. Uno che amava, in cui fidava. Un suo discepolo che sedeva alla sua sinistra. Perché? Perché gli uomini sono deboli. Perché sono preda dell'invidia e della codardia. Perché inseguono la verità e quando la trovano la ripudiano. E dubitano i pazzi. Perché l'uomo tradirà se stesso con il dubbio? Dillo agli altri, trovali e di loro di non dubitare. Neanche ora, che non dubitino. Di che conservino la loro fede. Che conservino la loro fede. Aspetta, a chi lo dico? Chi sei tu? Il mio nome è Giuda. Buongiorno, sono Gigi D'Agostino. Vi racconto il mio cammino. D'Agostino. Lei è il più fulgido astro del firmamento musicale. Meglio tardi che mai. Tardesio. Spazio, spazio. Voglio la cassa che mi scassa. Un bel tamburo bello duro. Meraviglioso. Dammi il basso. Cassa basso. anche a marzo. Non mi rompete il quarzo. Tempo. Dice il poeta. Dice il poeta. Dice il poeta. Ha detto questo? Madre, guarda, deve essere innamorato anche lui. Dice il poeta, l'amore è come il vino. Sorseggiarlo non nuoce, ma se lo tracanni ti dà la testa. Ma tu non l'hai neanche assaggiato. Ti giudica molto frivolo. Alle 2 del pomeriggio, suona Gigio. Giorno, ora seconda, c'è la musica che sfonda. Oh, grazie, vostra eccellenza, grazie. Dillo pure all'amica tua, D'Agostino suona alle 2. La frequenza mo te la do, la regina M2O. Ti farà frustare. L'hai veduto? Chi? L'uomo che è passato ora. Io ero laggiù. Si è fermato e mi ha guardato fisso negli occhi. Cosa voleva? Non lo so. Credevo mi volesse parlare, ma no. I suoi occhi hanno parlato. Andiamo, Demetrio. Credo voglia che lo segua. Chi è? Un condottiero? No. Un re? sono neanche un re. Non lo so. Se vuoi emozionarti, devi sintonizzarti. M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ti ho ritrovato e non voglio perderti. Forse tu non credi che una bimba di 10 anni possa innamorarsi e restarlo per tanto tempo. Danziamo l'amore. We'll be right back. bene che l'obiettività non esiste allo stato puro. Ciascuno di noi, nel momento in cui si rapporta all'altro, lo vede, lo sente e lo valuta tramite il filtro di ciò che noi siamo in quel momento. La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. Di qui la necessità e l'imperativo per ognuno di noi di darsi dei punti di riferimento sul piano cognitivo e dei valori, scegliendo cioè consapevolmente il filtro normativo attraverso cui interpretare il flusso degli eventi, il parametro etico con cui selezionare ciò che è bene e ciò che è male. Vivevo con gente che non aveva paura. Una storpia che si diceva fortunata di esserlo. Un tessitore le cui parole come il suo lavoro erano semplici e forti. Un bimbo che donò il suo asino a un amico. E mai più in questa vita ne possiederà un altro. Ma lo donò, contento, senza un fine. Quanto perdi tutto intorno, continua. quanto verde tutto intorno, così in là sembra quasi un mare nell'erba. È leggero il mio pensiero, vola e va, ho quasi paura che si perda. Cammino di Gigi D'Agostino. Buona, buona, buona. Molto poco, anzi, niente. L'uomo sa niente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo sa niente. È fino. L'uomo fino. È. E come Aristotile, Cotile, chiaramente dettura. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Bon, bon. Successione dei fenomeni.